Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Ivano Porpora, autore di La conservazione metodica del dolore, pubblicato da Einaudi nella collezione Stile Libero Big. Ivano Porpora è un esordiente, anche se un esordiente con discrete ambizioni, visto che questo è il primo volume di una pentalogia, cioè ci saranno appunto 5 libri, poi Ivano ci spiegherà bene in che modo sono legati questi libri. Di questo libro innanzitutto mi ha colpito subito il titolo, che ho trovato straordinario, La conservazione metodica del dolore, che poi assolutamente, insomma, si riferisce perfettamente alla storia che viene narrata. Ed entriamo allora nel vivo del romanzo, Ivano. Il tuo protagonista, Benito, ha una particolarità: soffre di epilessia e un attacco di epilessia gli ha cancellato completamente la memoria di 10 anni, 10 anni che vanno dal 69 al 79. Parliamo prima di Benito, dunque. Come potresti definirlo? Benito è una persona, oserei dire, sola in mezzo a tante persone, nel senso che è un uomo di 45 anni che ha cercato in qualche modo disperatamente, nei 25 anni che lo separano appunto dalla zona di vuoto, dalla zona in cui l'oblio si è creato, ha cercato come di distanziarsi da tutto quello che lo circondava, quindi dal dolore, ma anche dal piacere, creandosi questa sorta di asepsi, se così la possiamo definire, nella quale cercare di vivere, di dimenarsi il meno possibile, come, diciamo così, come se fosse entrato all'interno di sabbie mobili e se sapesse che il muoversi gli potesse soltanto causare un'ulteriore discesa all'interno di quegli inferi che si era creato e che in qualche modo si era autocreato. Benito è un personaggio anche molto schermato, cioè vive la sua vita, sembra quasi non comunicare con le persone con le quali ha a che fare in quel momento, per esempio sua moglie o anche il suo migliore amico, i suoi colleghi di lavoro. Vive un po' in un mondo parallelo. Ma a questo ci ho pensato diverse volte. È come mi viene la metafora della cattedrale, di quegli enormi pilastri che reggono le cattedrali. È come se lui continuasse a negare questi pilastri, continuasse a girarci intorno e quindi fosse a tutti evidente questo pilastro appunto immenso di una cattedrale gotica, magari fosse visibile a tutti meno che a lui. Infatti Benito è una persona che appunto nega il dialogo e cerca addirittura in qualche modo di convalidare a se stesso più che a altri una cattiveria che in realtà non è una reale cattiveria, non è una diciamo una corruzione dell'animo tangibile. E nel farlo e nel negare i propri sentimenti, invece, in qualche modo li rende palesi a tutti, soprattutto ad Angela, la moglie, a Rachele, la figlia, che è la persona verso la quale diciamo è più evidente il trasporto, a Mario, il suo amico, e in generale alle persone che lo circondano, o per motivi lavorativi o per un qualche legame familiare che poi si scoprirà a lungo lo snodarsi del racconto. Benito, dicevamo, fa il fotografo e usa alcune fotografie alle quali inizialmente sembra non riuscire a dare un nome, non riesce a collocare dal punto di vista spazio-temporale, per ricostruire appunto la sua vita. Come ti è venuto in mente questo escamotage narrativo, insomma questo personaggio che io ho trovato molto affascinante, cioè che perde la memoria e poi cerca di dare un nome al suo passato attraverso delle foto? Ma io sono completamente ignorante in merito alla fotografia. Avevo fatto una ricerca in ambito pittorico in tempi precedenti e tramite studi di Gombrich mi ero piano avvicinato anche all'ambito appunto fotografico. Soltanto in base a una sorta di ragionamento, che però è un ragionamento che, e questo secondo me è una piccola nota di merito del volume, è un ragionamento che è arrivato dopo, a posteriori del libro, e non, diciamo così, a costruirne un'intelaiatura che sarebbe sembrata falsa. È come se queste fotografie fossero nate da una camera oscura, essendo i suoi 10 anni di memoria rimossa, quindi dal 1969, dal fine dicembre del 69 alla fine dicembre del 79, quindi essenzialmente gli anni 70. Mm-hmm. Questi 10 anni rimossi sono la sua camera oscura, e quindi in automatico da questa camera oscura si sviluppano delle fotografie. Ciò che Benito non riesce a cogliere è il nesso fra queste fotografie, né il significato reale delle fotografie. Infatti nello snodarsi del racconto si capirà anche che è come se le fotografie in realtà fossero fotografie di altro, fosse un tentativo di fissare sulla carta fotografica dopo un ricordo che in realtà è avvenuto prima, che era precedente. Infatti questo è un gioco molto, molto bello, molto interessante di questo romanzo. Benito ha anche un'altra caratteristica: lui ha perso la memoria appunto di questi 10 anni, però vive il tempo quasi in modo orizzontale. Mi riferisco al rapporto che ha con le sue ex fidanzate, è come se le vedesse contemporaneamente esistere nel momento in cui vive, quasi ossessionato dal ricordo di queste ex. Come mai? Ma questa in particolare è un'ossessione che è quasi anche mia, non ossessione delle ex fortunatamente, ma ossessione del tempo passato. Questa ce l'ho e l'ho vissuta, avendo vissuto anche la malattia della quale si parla nel libro, l'epilessia, esatto, l'epilessia, e quindi avendo vissuto anche una rimozione di alcuni ricordi, diciamo che ho cercato di fissare disperatamente nella memoria, sia nella memoria mia fisica, sia nella memoria, diciamo così, attraverso i mezzi, quindi attraverso registrazioni, filmati e soprattutto attraverso lo scritto. Ho cercato in qualche modo di tenere continuamente vivo, vivace e presente il ricordo del passato. Questo però sicuramente ha avuto un valore positivo in me, perché appunto mi ha conservato questi ricordi, ha fatto in modo che parti di me non trascolorassero e non finissero, certo. Ma contemporaneamente ha avuto anche un effetto negativo, nel senso che in me e soprattutto in Benito avviene questa sorta di schiacciamento sul passato. È come se non ci fosse più una sorta di prospettiva che ingigantisce la figura di Angela nel presente, la moglie, ingigantisce la figura delle persone che gli sono vicine, e invece allontanasse le persone lontane. Invece è come se ci fosse questo sfondo schiacciato nel quale tutte le donne tutte sono assumono presenti, assumono quasi la stessa importanza. E qui arriviamo anche al titolo del romanzo, che ho detto mi è piaciuto tantissimo: La conservazione metodica del dolore, che è un titolo che non hai però inventato tu. No, non l'ho inventato io, e ci tengo anche a sottolineare che non c'entra nulla con la cognizione del dolore di Gad, nei confronti del quale ho peraltro un grande rispetto, ma non c'entra niente. Si tratta semplicemente del frutto di un clamoroso litigio con mia moglie, che, indicandomi due scatole di ricordi mai aperte, un giorno mi disse: quella che stai facendo è la conservazione metodica del dolore. Il titolo precedente del libro, diciamo la verità, il titolo era passato attraverso il libro era passato attraverso vari titoli, sì, come il succede quarto. Spesso, esatto. Insomma, però devo dire che questo è proprio azzeccato, tua moglie sì. ci ha visto giusto, insomma. E lei lo indicava per me, io in quel momento ho smesso di ascoltare quello che mi stava dicendo e mi sono ripetuto in testa, per non fare una cosa che l'avrebbe imbufalita ancora di più, cioè il fermarle e dirle un attimo che ho trovato il titolo del libro, e mi sono tenuto in mente continuando a riciclarlo come un mantra, esatto, questa frase, e alla fine quando l'ho proposta all'editore assolutamente ha valorato il tutto, anzi mi hanno detto ci siamo, il titolo giusto. La conservazione metodica del dolore, lo dicevo all'inizio, fa parte di una pentalogia, ho detto insomma un esordiente anche un po' ambizioso. Tu pensi di andare così giù liscio con 5 libri, che legame c'è fra questi romanzi che speriamo, te lo auguriamo, pubblicherai? Dunque, andare giù liscio, grazie al cielo spero di no, nel senso che spero di rotolarmici dentro. È un percorso che non è stato per la conservazione, non lo è stato nemmeno per il prossimo, che è già pressoché finito, e non lo è stato per gli altri che sono già in fase avanzata di scrittura. È stato un percorso sicuramente molto doloroso, perché è entrato anche a toccare i miei nervi sensibili. Si parla di una pentalogia del peccato, perché questo è il punto che, diciamo così, esula un po' dalla cognizione, dalla individuazione del peccato cattolica per pensieri, parole, opere, omissioni, e questa è la memoria, il peccato della memoria come memoria corrotta e come oblio forzoso, che sono in fin di conti entrambi una fonte grave di peccato, nel senso che sappiamo bene che quando la memoria è fallace siamo condannati a ripetere gli errori. Non Infatti, impariamo dagli non errori, insomma, impariamo. dalle esperienze. E gli altri peccati di cui ti occuperai? Sono dunque il pensiero nel prossimo libro che uscirà sempre per Einaudi Stile Libero. Poi c'è la parola in un ulteriore, poi l'opera e l'omissione. Ecco. Grazie allora a Ivano Porpora, autore, opera prima di La conservazione metodica del dolore pubblicato da Einaudi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate su Facebook e anche su Twitter come Ale Teddina. Un saluto da Alessandra Tedesco.